aggettivo su Pjanic? Che fiore! Su Pjanic? Su Pjanic, così. Pjanic è un avversario di grandissimo valore, è uno dei, più grandi talenti in questo momento in Italia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Siamo in un posto bellissimo, a Parco Valentino, Torino, sulla riva del Po, un sacco di meravigliose macchine al Salone dell'Auto, e c'è qui con me Andrea Levi, che è il responsabile, il colpevole di questa manifestazione. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, raccontaci, diamoci del tu, facciamo prima. Va benissimo. Raccontaci il senso di questa manifestazione e poi ti faccio un paio di domande anche di sport. Benissimo. Il senso è ridare all'Italia un salone. Bisognava avere però una nuova idea, perché i saloni al chiuso ormai sono ben definiti e sono i soliti: Ginevra, Francoforte, Parigi. L'idea è stata quella di avvicinare le auto alle persone, quindi andare in un luogo... E le persone alle auto. E le persone alle auto, in un luogo già frequentemente, naturalmente frequentato, come un parco cittadino nella città di Torino, un parco che sa di motori, perché in questi viali si correva l'antico Gran Premio del Valentino, quindi piloti, certo, come Ascari, certo, Fangio, certo, Nuvolari, certo, Villoresi, che tra l'altro sono adesso i nostri ingressi al Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino, correvano qua nel 55, e poi l'ingresso gratuito, perché se vogliamo riavvicinare, se vogliamo risvegliare la passione nei giovani, nelle persone per l'automobile, ecco, forse è il momento anche di avere qualche ingresso gratuito e un orario prolungato fino alle 24, quindi abbiamo costruito degli ingredienti nuovi, ecco, un bel piatto con degli ingredienti nuovi. Sì, è il tempo di Masterchef, dei grandi cuochi, eccetera, eccetera. Avete costruito un piatto con ingredienti nuovi a proposito di auto. Qual è il fiore all'occhiello di questa manifestazione? Il fiore all'occhiello è che abbiamo praticamente tutti i brand sportivi. Andiamo da Ferrari, Pagani, Aston Martin, Lamborghini, Porsche, Jaguar, Bentley, Corvette. Quindi direi che tutta la parte sportiva è presa. I brand premium, Audi, Mercedes, BMW, i generici, abbiamo le anteprime di Volkswagen, Seat, Renault, Ford, Abarth, Fiat. Direi che abbiamo 43 case automobilistiche, quindi non ho dimenticate perché sono troppe, un vero salone dell'auto. La caratteristica è che abbiamo chiesto alle case di portare le novità. Abbiamo un regolamento, massimo 4 pedane, quindi 4 auto per brand, e vuol dire quindi che si viene al Salone dell'Auto di Torino per vedere le novità in una nuova modalità, con una bella passeggiata all'aperto. Questo vuol dire che ci rivolgiamo ai giovani, anche alle coppie, alle famiglie, e questo è importante perché normalmente nei saloni tradizionali, sì, poi vediamo, cioè, chi ha la possibilità di comprarsi queste macchine, perché io vedo delle auto qui che normalmente non potresti permetterti. Ma quelle auto, da sempre il libro marketing ci dice che sono quelle che poi risvegliano la passione e ti fanno comprare. Beh, magari l'utilitaria, giustamente. Quindi sono propedeutiche anche quelle, diciamo, per la crescita del mercato dell'auto in Italia. Comunque la gamma è completa, i brand sono quasi tutti, quindi andiamo ovviamente dall'utilitaria alla super sportiva. Adesso c'è l'anteprima mondiale della Mazzanti, che ha 1000 cavalli, 400 km orari. Sicuramente ha un prezzo proporzionato, sì, alle prestazioni. Non possiamo permettercela, io no. Allora dobbiamo parlare di un'altra auto. No, ma io sono un motociclista, quindi preferisco le due ruote. Lo dichiaro qui contro ogni tendenza, io sono un biker e mi piacciono da morire le macchine. Come oggetti sono meravigliose, eccetera, ma io sono un biker. Biker, allora, c'è qualcosa per te anche all'interno del Salone dell'Auto, perché nella celebrazione del centenario di BMW, sabato e domenica, nel cortile del castello, così annunciamo anche un grande evento, ci saranno appunto la storia del gruppo BMW, quindi auto, BMW, Mini, Rolls Royce, e moto BMW, quindi ti invito sabato e domenica a vedere i 100 anni delle moto, forse, BMW. Forse è meglio di no, no. Forse è poi, poi sei tentato. Senti, ma da piccolo perché facevi il tifo in Formula 1? Da piccolo Senna, da sempre, anche quando c'era Prost in Ferrari, che quindi magari molti italiani tifavano, non tanto Prost, secondo me pochi hanno tifato Prost, però magari tifavano la Ferrari. E poi? E poi, beh, se hai tifato Senna dopo, sì, insomma, Schumacher va bene, lì tifavo Ferrari, va bene. No, ma tifavo Schumacher Ferrari va bene. Più che Schumacher, va bene. Siamo tornati a tifare Ferrari da dopo. Siamo tornati a tifare Ferrari. E qual è la tua grande passione? Ma è quella, guarda, ero a Monte Carlo a vedere la Formula 1, è cambiata, mi piaceva più quella di una volta, sono cambiati i sound, è cambiato lo spettacolo, non questi gran premi nella terra l'urlo del... L'urlo non si sente più? No, l'urlo è molto, molto meno pronunciato. L'anno scorso c'era McLaren, non so se hai sentito, faceva quest'urlo un po' strano. Sì, hanno anche provato a farlo per finta. Hanno provato anche a farlo per finta, un urlo più così sì, udibile sì, sì, rispetto a quello, rispetto a quello normale, rispetto a quello che fanno queste macchine qui, che non ti trasmettono tutta questa passione. E quest'anno? E poi gli odori mancano, una cosa che rispetto a qualche anno fa. Quest'anno per chi tifo? Mm-hmm. Ma quest'anno insomma si sta mettendo bene come spettacolo tra Hamilton, Rosberg e poi le Red Bull in crescita. Beh, interessante Verstappen, un giovane che ha un buon motore. Sì, quest'anno speriamo nello spettacolo. Guarda, non Ferrari sembra leggermente ancora non proprio per lottare per il primo posto. È insomma interessante. Formula 1 quest'anno almeno un po' di incertezza c'è su chi vince, però non è più la Formula 1 di una volta. No. Hai ragione. Io ringrazio Andrea Levi, che è il padrone di casa qui a Torino, a Parco Valentino, al Salone dell'Auto all'aperto, meraviglioso. Io invito tutti a farci una passeggiata, perché siamo estate praticamente, in riva al Po, un sacco di belle macchine, anche un sacco di belle donne, devo dire, per la cronaca, soltanto per la cronaca. 800 24 0024 è il numero verde, 349 238 6666 per i vostri messaggi. C'è Giorgio Rughe, nostro autore, che è rimasto a Milano, peggio per lui. Torniamo subito e poi parliamo anche un po' di calcio. Tutti convocati. Tutti convocati. Noi dobbiamo essere concentrati su quello che stiamo facendo da due settimane a questa parte, pensare a lavorare, pensare a migliorare su quello per cui lavoriamo, migliorare sui nostri principi, sulla nostra idea, su quello che vogliamo fare, non curandoci minimamente di quello che avviene all'esterno, perché sappiamo benissimo che possono arrivare dall'esterno elementi positivi o elementi negativi, a noi non devono intaccare minimamente. Questo è Conte che ha appena parlato. Siamo all'alba praticamente della spedizione italiana agli europei. Dario Ricci la seguirà per Radio 24 come nostro inviato, lo saluto subito. Ciao Dario. Ciao Carlo, un saluto da Montpellier. Un saluto da Montpellier, e sarà lui a scriverci il diario giorno per giorno di questo campionato europeo. So che è con un ospite, Pierluigi Pardo. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao, io sono con De Luca a Milano, col signor De Luca. Sei? Con De Luca, davvero? Sono con De Luca a Milano. Sì. Ma perché non sei qui con me a Parco Valentino? Perché me l'ho detto ieri sera che mi sceglierà. Era complicato, però con il... Beh, ma ti passavo a prendere a casa, che è il problema. A Roma, che facevi Milano, Roma, Torino. A Roma. Aperto, ma è vero vabbè, che... a Roma mi veniva un po' fuori mano. Allora, Dario, prime parole di Conte a Montpellier. Io più che le parole che abbiamo sentito ti chiedo quali sono le facce, ufficio facce, come diceva un tempo il meraviglioso Beppe Viola. Direi, caro Carlo, che la domanda è, come al solito, centrata, perché lo sappiamo bene, le parole dette in questi giorni di vigilia sono spesso trascurabili, non certo indimenticabili, direi, regola a cui sottostà anche la breve conferenza stampa di oggi del CT, ma più delle sue parole conta la faccia. È un Conte molto determinato, molto deciso, che sembra, malgrado le assenze e grazie forse anche al tanto lavoro che dovrebbe essere stato a questo punto incamerato, aver quantomeno fatto un'Italia a sua immagine e somiglianza per quanto riguarda carattere e grinta. Oggi c'è stato il bagno di folla in questo allenamento a porte aperte presso il centro sportivo Gasset di qui a Montpellier, che sarà il nostro campo base. Ora siamo qui a Casazzurri, dove si è svolta la conferenza stampa. Insomma, direi di ambiente fammi molto diverso da Mangaratiba. Se è mai stato a Montpellier nei suoi mille pellegrinaggi? No, a Montpellier no. Montpellier chiedere... ti manca? Mi manca Montpellier, deve essere anche carina. Ma volevo chiedere al professor Ricci il percepito qual è dal punto di vista della sicurezza, perché abbiamo letto ovviamente gli articoli di giornale, abbiamo letto tutti gli allarmi, le attenzioni, le blindature, addirittura insomma sconsigliate agli azzurri le passeggiate in centro, o quantomeno devono essere in qualche modo concordate con la security. Cos'è il percepito? Cioè, quanto è diverso rispetto agli altri europei e agli altri mondiali? Ma devo dire che oggi, ad esempio, andando all'allenamento, siamo stati perquisiti con attenzione, dedicandoci qualche minuto in più, ma non c'è l'impressione, e lo chiedo anche al nostro ospite Marcello Di Dio, inviato del giornale, che è qui con me. Marcello, condividi l'idea che non c'è l'impressione, almeno al momento, di un europeo blindato o blindatissimo? Attenzione sì, ma non ad essere soffocati dalla sicurezza. Tanto buonasera a tutti e buonasera anche a Pierluigi. Sì, non sembra che ci sia grande tensione, almeno attorno alla nazionale. Insomma, oggi questo bagno di folla è stato abbastanza tranquillo, c'erano i tifosi naturalmente italiani che aspettavano questo momento. In realtà è stato un momento importante anche per noi, perché non avremo molte possibilità di vedere la nazionale di Conte, che spesso blinda, anzi da domani blinderà di fatto la squadra. Quindi sì, c'è attenzione. Montpellier però in questo senso sembra un po' un'isola felice in questo momento nella Francia. Sì, anche perché è un po' fuori, al di là della presenza degli azzurri e poi qui vicino a una decina di chilometri anche della Svizzera, però non è neanche sede di partite, per cui sai, da questo punto di vista è chiaro, c'è forse un criterio di sicurezza altrettanto alto ma diverso nelle modalità, ecco ragazzi. Certo. Capito Pier? Sì, questo è il senso, questo è Montpellier, questo è il raduno dell'Italia, il ritiro dell'Italia, non bisogna entrare nudi dentro al ritiro stesso. No, ma poi lì arriveranno i ragazzi di Casazzurri storicamente, con gli sponsor, col parmigiano, col prosciutto, con i cuochi che fanno la pasta, quindi poi insomma sicuramente i ragazzi parlano dei giornalisti. Sì. Sponsor, delle persone al seguito, quanto ti manca? Quanto ti manca l'europeo, Pierluigi? Ma no, francamente sono molto felice di fare altre cose quest'anno. Però certo, poi mi mancheranno dei ragazzi che sono. Allora, Dario Ricci e Marcello Di Dio del giornale, sensazioni sull'Italia che andrà ad affrontare il primo impegno. Ne avete qualcuna? Allora, ti dico che le facce, sempre passando per quel famoso ufficio, sembrano quelle giuste, vedendo anche l'intensità del lavoro fatto oggi, no? Ad esempio a un certo punto c'è stato un torello allargato prima della partita a campo ridotto finale. Beh, aspetta, io giro un domandone anche agli ascoltatori, 800240024, quale Italia vorreste vedere al debutto europeo? Vai! Ecco, sembra un'Italia che, considerato il lavoro fatto, ma anche le tante assenze, diciamo, si approssima a quella meglio possibile che poteva fare Conte in queste condizioni. Certo, è chiaro, chiedo anche a Marcello, anche oggi vedendo l'allenamento gli occhi erano puntati sempre su quei due, De Rossi e Thiago Motta, perché poi la faccia può essere quella giusta, ma anche i piedi lo devono essere, anche la velocità di palla, no Marcello? Siamo sempre là. Guarda, oggi ho visto un Conte che, quando ci sono queste situazioni istituzionali con il sindaco, con l'ambasciatore, sempre un po' tirato, quasi un po' insofferente, perché lui chiaramente è un uomo di campo, preferisce respirare l'aria, l'erba, come dice lui. Per cui è chiaro che in questo momento pensa davvero a come risolvere queste questi piccoli ballottaggi che ha. Io credo che in questo momento Thiago Motta sia comunque in vantaggio su De Rossi, anche se De Rossi sta fisicamente bene. Conte continua a sostenere che giocherà chi sta meglio fisicamente, però Thiago Motta magari in partite come quelle col Belgio può garantire forse delle geometrie particolari, vediamo. Anzi, oggi ha detto Carlo un dato importante in questi pochissimi minuti di conferenza stampa, ha detto: io ho chiamato questi 23 perché comunque so che giocheranno tutti in queste tre partite. Quindi è un che tra l'altro ha sottolineato anche l'aspetto caldo, che qua a Montpellier è significativo, più significativo rispetto a Coverciano, quindi probabile anche che abbia studiato l'europeo per quello che è, un mini torneo di tre partite che dobbiamo assolutamente vincere, che vuol dire passare il turno, e quindi tutti i 23, anche nella mezz'ora, anche nel quarto d'ora, anche nel solo tempo giocato, possono tornare utili alla causa. Certo, certo. Grazie a Dario, grazie a Marcello Di Dio, inviato del giornale. Grazie ciao. A voi, buonasera, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao, grazie ciao, a voi. Ciao Dario, oggi prima puntata sarà Dario Ricci, nostro inviato, a tenerci il diario dell'europeo francese. Vuoi sentire un'altra piccola banalità di Conte, Pardo? Vai, vai, sentiamo. Vai, vai. Me la mandate, ragazzi? No. C'è qualche problema, te la risparmio, stiamo lavorando per tirar fuori il meglio, il senso era questo di ciò che ha detto Conte, ma d'altra parte, Pier, sono i giorni in cui non si scoprono le carte, in cui si insomma assisteremo ad un sacco di conferenze stampa all'insegna del già visto, già detto, già sentito, ma è normale, no, giusto anche che sia così. Noi giornalisti proviamo, siamo abituati a dare un alle conferenze stampa ed è vero, cioè insomma sicuramente la ricerca delle facce, delle situazioni, degli indizi, però dopo un po' di anni di esperienza capisci che hai visto tutto il contrario di tutto, no? Alcune volte in effetti le impressioni che tiravi fuori da una conferenza stampa o dagli umori, dalle sensazioni parlando con i giocatori sono state confermate dal campo, altre volte sono state completamente disattese, quindi francamente faccio fatica a darti una logica, no? Per poter capire e per poter interpretare se poi il risultato del campo sarà quello che in qualche modo le sensazioni di una conferenza stampa o di un allenamento ti possono dare. Parlavo con il professor Galderisi prima della finale di Champions League e mi raccontava due sessioni di allenamento del Real Madrid e dell'Atletico completamente diverse, nettamente migliore quella dell'Atletico rispetto a quella del Real Madrid, e poi in campo questo sì, forse si è anche visto in certi momenti, ma comunque non è bastato, no? Quindi poi alla fine certo uno si porta dietro delle sensazioni, però insomma poi alla fine la parola spetta al campo, tutto quello che succede prima conta purtroppo, in certi casi conta poco, perché certo, conta fino a un certo punto. Allora, ci fermiamo per la borsa. Dopo parliamo di borsa del pallone, perché Miralem Pjanic va alla Juventus, perché la Roma sta vendendo, non svendendo, ma vendendo i suoi gioielli, e vogliamo capire perché. E questa mi sembra un'altra delle notizie del giorno. 800240024, numero verde, vi aspettiamo qui. Tra poco seguiremo tutto. Prima però, spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Si ricomincia! Tutti convocati. Vabbè, Per fortuna non si è capito benissimo, però gli insulti erano rivolti dai tifosi giallorossi a Miralem Pjanic, che lascerà la Roma per la Juventus. Non è una grandissima sorpresa. C'è Pierluigi Pardo, naturalmente, siete tutti convocati all'800240024. Chiedo conferma a Claudio Raimondi da Mediaset. Ciao Claudio. Convocatissimo, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Dunque se ne va Pjanic, direzione Juventus, verrà pagata la clausola con un certo sconto, però non mi sembra una notizia epocale, perché se ne sta già parlando da un sacco di tempo e perché, poi chiediamo a Belinazzo, la Roma deve vendere alcuni dei suoi gioielli, alcuni dei suoi pezzi di argenteria di famiglia, no Claudio? Guarda, io credo che sì, però questa è stata la finanziaria, chiamiamola così. Questa permetterà a questa operazione di attivare il mercato giallorosso. Non prevedo un altro sacrificio importante, puntello nella rosa assolutamente, Nainggolan. Vedo lontano Dzeko e ci arrivano segnali che Inghilterra ha ancora un discreto, non di primissima fascia, ma un discreto mercato. Credo che in affari spenti l'operazione altra che cercherà, se non di portare altro denaro, quantomeno di farne uscire un po', perché comunque è pesante il suo ingaggio. Detto questo, la Roma ha individuato il sostituto ed è Diawara. Ti do un'anticipazione che daremo questa sera a Calciomercato su Premium. Diawara dal Bologna, c'è il Napoli, oggi c'è Bigoni, il nuovo DS rossoblù, che parlerà con il nuovo DS da un anno giunto lì a Milano. Vedremo se il Napoli tornerà a risondare il centrocampista che piace a tante squadre, anche al Valencia, ma potrebbe essere lui l'alternativa low cost, perché comunque per età è tutto, vale sui 15 milioni, farebbe una buona plusvalenza la Roma, e questo è quello che ci risulta sostanzialmente. Ma Nainggolan dovrebbe restare, Nainggolan dovrebbe restare, perché sul mercato ce n'era uno dei due, no? Tra Pjanic e Nainggolan. C'era Rudiger. Beh, la storia di Rudiger la conosciamo, era già stato promesso sposo del Chelsea di Conte, però si è fatto male, starà fuori per lungo tempo e quindi l'operazione è saltata. Sì, tra l'altro da dire anche che ha sconquassato anche altre situazioni, perché Koulibaly ha avuto l'idea non proprio felicissima di dire: penso che il mio tempo a Napoli sia finito, mi sto guardando attorno, mi lusinga il Chelsea, ha dato segnali molto molto evidenti, è scoppiato un mezzo caos nel Napoli, ma ha fatto capire che insomma il dialogo è aperto, e quindi credo che Napoli sia con le antenne dritte, stiamo cercando di individuare se arriverà l'offerta giusta dal Chelsea. Può darsi che arrivi l'offerta giusta, che un difensore lo vuole, Conte ha cercato anche Bonucci, no secco ovviamente della Juve, credo che dovrà guardarsi intorno, perché è un titolare, non so se nell'ottica Tonelli verrà poi subito promosso prima squadra, c'è la Champions diretta quest'anno, forse serve una figura diversa, però tutto è possibile. Beh, c'è anche Rugani che ha fatto il suo discreto apprendistato. Ti ringrazio, ti ringrazio Claudio. Ciao, grazie Claudio. Claudio Raimondi. Ciao, ciao, ciao. C'è Marco Belinazzo in studio a Milano. Ciao Marco. Eccomi, preso possesso dello studio oggi. Ti sei impossessato dello studio. Sono un po' geloso. Sì, della tua postazione, però, in particolare. Però sappi, io sono a Parco Valentino a Torino, in riva al Po, contorneato da un sacco di meravigliose macchine, e non solo macchine. Saluto chi sta passando. Oggi siamo in diretta da qui. Allora, perché la Roma deve vendere i suoi gioielli? Beh, la Roma aveva questo obbligo, concordato con la UEFA, di chiudere i due bilanci 2015 e 2016 a meno 30. Ora, il 2015 è stato chiuso con un meno 40 e il tendenziale, diciamo, del 2016, il bilancio che verrà chiuso al 30 giugno, era comunque negativo, perché la Roma quest'anno diventerà la seconda squadra in Italia per fatturato, quindi supererà il Milan, ma ha costi molto alti di gestione, dovendo mantenere una rosa importante. E quindi si poneva l'obbligo di correggere in corsa, quindi facendo una cessione importante prima del 30 giugno. La cessione Pjanic era quella più intelligente, tra virgolette, in ottica fair play finanziario, perché permetterà di fare una plusvalenza di oltre 25 milioni. E credo che grosso modo dovremmo esserci ora, quindi con il rispetto di questo parametro, per cui le altre mosse, quelle che farà d'ora in poi Sabatini, saranno, diciamo, meno condizionate da questi vincoli e quindi saranno più legate semplicemente a scelte di carattere tecnico. Ecco, a scelte di carattere tecnico, io faccio una domanda calcistica a Pierluigi Pardo. Tu avresti ceduto Nainggolan o Pjanic? Ma il problema non non si poneva per due motivi fondamentali. Il primo è la clausola, nel senso che poi alla fine la cifra che la Juve ha versa alla Roma è pari alla clausola meno il 15% che era promesso al calciatore, che verrà appunto quindi splittato sull'ingaggio. E quindi insomma, sto facendo un discorso tecnico. Tecnicamente Pjanic. Tecnicamente fra i due, secondo me Pjanic c'è il sacrificio. Io credo che ci sia solo una cosa realmente negativa per la Roma, cioè il fatto che questo giocatore sarà venduto alla Juve e non a un club di un altro paese. Questa è secondo me, il grande baco dell'operazione, che era un'operazione imparabile, perché il giocatore aveva una clausola. E passo al secondo motivo: credo che a differenza di Nainggolan fosse da sempre molto più aperto a una cessione. Ma Nainggolan è uno che si è espresso anche sui social spesso in termini, diciamo, non esattamente amichevoli nei confronti della Juve, di una parte dei tifosi, insomma sente molto questo ruolo di leader anche all'interno dello spogliatoio, e quindi secondo me, insomma, era anche più difficile dal punto di vista proprio ambientale. La volontà del giocatore sarà diversa e penso che Nainggolan rimarrà da Roma. È chiaro che la sensazione, tornando a quell'audio che ci ha fatto sentire prima, è sempre un po' la stessa, cioè che 10 anni dopo, da Sensi a Pallotta, alla fine non cambia la sostanza di una squadra che nelle sue annate migliori si avvicina al traguardo e poi è costretta paradossalmente a cedere per motivi finanziari i migliori giocatori alla squadra magari che ha appena vinto il campionato, che sta dominando. Certo, era l'Inter di 10 anni fa, alla quale la Roma aveva venduto Mancini, aveva venduto Chivu proprio per motivi di bilancio, e oggi vende Pjanic all'ultima squadra che tutte le inseguitrici dovrebbero voler rinforzare. Chiaro, dovrebbero voler rinforzare. Cosa va a fare Pjanic alla Juventus, secondo te, Pier? Beh, va a fare centrocampista di qualità, centrocampista di talento, giocatore importantissimo. Io ripeto, non credo che per la Roma sia... La Roma è messa bene al centrocampo, se tiene Nainggolan, ovviamente ha, secondo me, ha una qualità, la suggestione di Avarà è certamente molto interessante. Non è un tipo di partenza, secondo me, terribile dal punto di vista tecnico. Dovendo... Non sono così d'accordo, perché no, mi sembra un giocatore di cui non c'è una replica, non è Nainggolan la replica di Pjanic nel centrocampo della Roma. Beh, Nainggolan l'anno scorso sarà anche più decisivo di Pjanic, perché ha messo insieme qualità e quantità in maniera, secondo me, sicuramente più continua anche dal punto di vista realizzativo. Sarà un giocatore che se ne è giocato praticamente alla pari, ma qui adesso non è voi più bene mamma o papà. È chiaro che sono due giocatori importantissimi che fra l'altro si completavano. Io dico che in assoluto, per quella che è la forza della Roma, la rosa della Roma e i problemi economici, la cessione di Pjanic ci stava. E il fatto che sia stato venduto alla Juve certamente ci sta molto meno. E per quanto riguarda il resto, bisognerà vedere ovviamente se si riuscirà a trovare con questa mossa questa mossa molto maculata di Sabatini, se si riesce a trovare alla fine una quadra, perché questo è il tema. Ma questo è il calcio mondiale va in questa direzione, certo, qui, dove i ricchi, ma certo, sono non c'è dubbio, vincere, non c'è dubbio, Pierluigi, quante volte l'abbiamo detto, insomma, stiamo quasi diventando noiosi come gli anziani sulle banchine del parco. Meraviglioso Parco Valentino, meraviglioso, siamo in diretta da qui, Salone dell'Auto, Riva del Po. Cielo velato, fa piuttosto caldo, c'è un sacco di gente, ci sono un sacco di belle macchine e altro. Ci vediamo per il traffico, che non è certo qua dentro, le macchine sono ferme. Tutti convocati. Salutiamo tutte le centinaia di presenti che passano davanti al nostro stand a Parco Valentino, a Torino, al Salone dell'Auto sulle rive del Po. Marco Berinazzo, tu sai che ti tocca adesso, no? Sì. ti sei impossessato del mio studio e adesso ci parli di Milan e Inter. In quale ordine? In quale ordine lo scegli tu? A me sembra più interessante la questione del Milan, anche perché è molto più complicata quella dell'Inter. Non so quando arriverà a fare colpi come quello che ha fatto la Juventus con Pjanic, non so quando verranno sdoganati i capitali dei nuovi proprietari, però a me sembra più interessante la questione del Milan. Allora guarda, facciamo così, dico due cose veloci sull'Inter e poi passiamo al Milan, vabbè. Nel senso che siccome sei preso il mio studio e non mi hai dato retta, avevi questi dubbi sull'Inter, su quando arriveranno i capitali e quando e come potrà operare sul mercato. Allora proviamo a dare due veloci risposte, nel senso che ci sarà ora un'assemblea a fine giugno dove sarà ratificato di fatto il passaggio delle quote e credo che ci sarà poi anche un aumento di capitale per dare liquidità immediata al club. Entro quella data credo che l'Inter procederà a quelle cessioni che servono a rimettere, come nel caso della Roma, ma in maniera ancora più importante, in equilibrio i conti e a far giungere, diciamo, il bilancio 2016 almeno 30. Dopodiché si aprirà una nuova fase, nel senso che Suning potrà verificare con la UEFA se c'è lo spazio per modificare i patti che attualmente vincolano l'Inter, per esempio a raggiungere il pareggio di bilancio nel 2017, a fronte appunto del cambio di proprietà e a fronte di un piano di rilancio del club che ovviamente dovrà essere più credibile di quello presentato da Toir. Sì, però ti dico, secondo me il primo passo importante, la prima cosa importante sarà quella di scoprire i nomi della famosa catena di comando dell'Inter. Sì, Bolingbroke ha garantito ai suoi collaboratori che i cinesi non intendono toccare l'attuale management. Ora, per il momento è tutto logico che così non sarà, nel senso che chiaramente a un certo punto i cinesi metteranno nei posti in cui riterranno necessari i loro uomini, però è anche evidente che insomma in questi due anni e mezzo quasi Toir e Moratti insomma hanno costruito una catena di comando importante con persone qualificate e quindi non credo che, come dire, sarà completamente azzerata, però vedremo quello che accadrà. L'importante è appunto che Suning riesca a ottenere maggiore spazio di manovra. Questo potrebbe aprire degli spiragli anche per questa sessione di mercato, insomma, tra luglio e agosto. Certo. E devo dire che per esempio si sta ragionando sulla possibilità di acquisire per esempio i naming rights da Piano Gentile, sponsorizzazioni interne del gruppo Suning all'Inter per far aumentare subito i ricavi. Queste sponsorizzazioni interne, diciamo, non sono vietate, dovranno essere comunque limitate. Ricordiamo il caso Paris Saint-Germain o Manchester City Etihad, però sono un sistema, diciamo, per cui queste nuove proprietà poi possono, come dire, incidere molto positivamente, molto velocemente sui ricavi in maniera da giustificare determinate uscite. Si parla più di finanza che non di giocatori, il professor Berinazzo dal piano di sopra, dal Sole 24 Ore, che si è impadronito nel mio studio, poi possiamo chiamare anche Barisoni, però si parla più di finanza e di manovre finanziarie che non di giocatori. Volevo chiedergli, ma dal punto di vista di Suning, cioè se arriva un nuovo compratore, diciamo pieno di soldi, ma parlando in generale, nei confronti del UEFA e del fair play finanziario, che strumenti ha? Cioè, perché comunque la società continua a essere analizzata per quelli che erano i suoi bilanci di prima. Chiaro. Ammesso che arrivi uno che dice va bene, copro tutto io, comunque al UEFA non va bene questo tipo di soluzione, o no? Certo, comunque i parametri restano, non è che puoi comprare giocatori, mettere un miliardo e comprare giocatori e pagarli a peso d'oro, insomma, in ingaggi. Questo no, i parametri restano, però dallo scorso anno proprio per incentivare i nuovi investimenti si è introdotta una clausola nel regolamento del fair play finanziario per cui è possibile, appunto, di fronte a un cambio di proprietà ridiscutere con la UEFA quelli che sono diciamo i paletti del play finanziario, per cui si però può... Marco, l'altro giorno un ascoltatore faceva notare che lo puoi fare una volta sola, non lo puoi fare in realtà quello che è stato fatto riguarda diciamo le sanzioni applicate all'Inter che sono ancora in corso. Sì. Nel caso appunto di cambio di proprietà, è vero, puoi fare una sola volta, ma appunto il cambio di proprietà è appena avvenuto, quindi non è stato fatto con Toire, comunque parliamo di una nuova proprietà, si va dalla UEFA, perché questa norma quindi, esiste per chiarire da un a tutti, solo la anno nuova, insomma. La nuova proprietà potrà concordare, ecco, esattamente concordare, ridiscutere le condizioni, si potrà dire noi debito. Riusciremo a portare i ricavi strutturali dell'Inter da 180 a 260 milioni nel giro dei prossimi tre anni, perché prevediamo di avere questo tipo di entrate, a fronte di questo consentiteci di sforare per poter pianificare tutta una serie di investimenti magari sulle infrastrutture, sullo stadio, sul centro sportivo, e questo ovviamente è oggetto di, una trattativa vera e propria, quindi di carattere politico, tra la UEFA e la nuova proprietà. Nessuno finora in Europa ha sfruttato questa clausola. I primi a presentare un progetto erano stati Barbara Berlusconi e Umberto Gandini del Milan a febbraio, poi diciamo la trattativa è in corso, e così ti porto alla vicenda Milan. Ha di fatto bloccato diciamo questa procedura, quindi l'Inter sarebbe la prima società in Europa a poter sfruttare questa clausola. Certo. Beh, sul Milan occorrerà un supplemento di indagine. Intanto saluto Marco Berinazzo, guarda che domani torno. Assolutamente. Reimpossesso dello studio a Radio 24. Oggi sono a Parco Valentino a Torino. Intanto ti saluto, ma in mezzo a mille sul Milan, meravigliose automobili. Sul Milan possiamo dire che vedo che ho ancora un po' di minuti, quindi sfrutto ulteriormente questa possibilità, o questo potere. Ho un minuto. Mi fanno segno secondi. Dalla regia di avere addirittura un minuto, quindi occuperò questo spazio per parlare del Milan. Chiaramente tutto è condizionato dalla situazione insomma di Silvio Berlusconi, insomma lo stato di salute che in questo momento è prioritario. La situazione devo dire è abbastanza delineata, nel senso che Fininvest ora conosce quello che è il quadro dei potenziali investitori. Confermo che non ci sono i nomi di grido che sono stati fatti, perché altrimenti insomma la situazione sarebbe già chiusa. Le cifre sono anche definite, i cinesi vorrebbero investire non quanto chiede Berlusconi, per cui vediamo quello che succede nelle prossime settimane. Strano. Grazie Marco, ci sentiamo nei prossimi giorni. Io saluto, sparisci da lì. Io saluto anche Pierluigi Pardo, con cui ci sentiamo naturalmente domani. Ciao Pier. Ciao ragazzi, ciao. Sta claro. Ciao Pierluigi Pardo, ci fermiamo per il GR, ma ovviamente subito dopo torniamo in diretta da Parco Valentino, Torino, Salone dell'Auto. E l'arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari, si va ai supplementari. La partita si allunga, in molti l'avevano previsto. Tutti convocati. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30. Su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. C'è chi mi scrive: sarai anche nel bellissimo Parco del Valentino, ma tra poco sarai sotto un bel diluvio. Scrive Roberto da Torino, che invito a venirci a trovare, ma qui con Elena Ligios del marketing, con Davide Ciocia, con Pietro Lacorte, con Alessandro Longoni, ci stiamo attrezzando e chi se ne frega, se piove ci bagneremo e poi ci asciugheremo. Domenico da Monza, buongiorno. 800240024, numero verde. Intanto qui è bellissimo, vi devo dire, è bellissimo. Buongiorno Domenico, buongiorno. Faccia un salto domani, faccia un salto a Parco Valentino. Sì, buongiorno. Al Salone dell'Auto. Pronto? Pronto. Sì, mi sente? Sì, certo, okay. La sto invitando a Parco Valentino. La sto invitando a Parco Valentino. Ebbene, non è dall'altra parte della luna. No, eh. No. Senta, no, prima lei ha fatto cenno alle stanze di sopra dei vostri studi, no? E sì. Mi è venuto in mente un articolo che ho proprio letto stamattina di Fabio Pavesi, no? Sulla situazione delle milanesi. Sì. Diciamo che ha buttato molta acqua sul fuoco rispetto a quello che avevo letto qualche giorno fa, invece un articolo della Rita Fatiguso che era molto molto più entusiasta, un articolo quasi da tifosa, no? E purtroppo ricordava che l'Inter, cioè Moratti, in 10 anni si è fumato quasi 900 milioni di euro per ottenere dei risultati sportivi che conosciamo, no? Molto bene dal 2006 al 2010, negli ultimi 5 anni insomma un po' meno. Sì. Credo che un certo modello non esiste più, Domenico, un certo modello di così paternalismo calcistico ormai non esiste più, nonostante i nostalgici, nonostante ci siano quelli che dicono però i cinesi, però era meglio Moratti, però era meglio un altro calcio, eccetera eccetera. Un certo modello di paternalismo calcistico ad alto livello sinceramente non esiste più. Mette d'accordo, nel senso però che quanto saranno disposti a sopportare in termini di sacrifici economici questi signori, che non credo che siano proprio degli innamorati dell'Inter come poteva essere Moratti, disposto a grossi sacrifici economici per l'amore, diciamo, della squadra. Proprio questo tema, ma visto che il paternalismo andare al sodo, amico mio, non è più questione di amore. Io non credo che Abramovic sia nato con la maglietta del Chelsea addosso, non credo che i proprietari arabi di Paris Saint-Germain e Manchester United siano nati con quelle magliette tatuate addosso. Io credo sia una questione di affari e credo che sia anche una questione di un altro modo di gestire il calcio. Domenico non c'è più, Pierpaolo, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, salve. Io volevo fare una precisazione perché avevo chiamato, ero intervenuto a tutti i convocati a fine anno e avevo fatto un pronostico sull'esito finale del campionato, avevo detto che la Juventus sarebbe stata campione con 15 punti di vantaggio sull'Inter e sono stato buon profeta. E quindi profeta, adesso anzi passa all'incasso. Ok, poi volevo dire un'altra cosa velocissimamente, ascoltavo prima la trasmissione. Io penso che invece Pjanic sia fra Pjanic, noi possiamo pagare con magliette, gadget, cose varie, non paghiamo con altro, anche se passa all'incasso, mio caro. Volevo dire che Pjanic, secondo me, invece dei due è il migliore fra Pjanic e Nainggolan, perché poi soprattutto per quello che serve alla Juventus, perché la Juve ha bisogno di un uomo in mezzo per sostituire Marchisio e Pjanic ha tutte le carte in regola, qualità, tecniche per essere l'uomo giusto per la Juve. E poi aspetti per Paolo, Marchisio non è facilmente sostituibile, non credo che sia il piano della Juventus di sostituire Marchisio con Pjanic, piuttosto di allungare la rotazione, anche perché sappiamo bene come in questa stagione Khedira sia stato molto ondivago dal punto di vista della condizione fisica. Dica. Però volevo dire che Pjanic secondo me è un centrocampista che tecnicamente ha una grande visione di gioco, è capace di impostare questo il gioco, non c'è ombra di dubbio. Quindi questo volevo dire. E poi l'ultima cosa, il motivo per cui secondo me la Juventus, al di là che sono un tifoso juventino, ha un grande futuro in Italia e non solo. Io ho ascoltato la trasmissione, ho ascoltato Andrea Agnelli qualche sera fa, un'intervista fatta in TV, lunga intervista a Sky. Esatto, e ho capito veramente come funziona. Quella è un'azienda, quella è un SPA, ognuno rispetta i suoi ruoli, ognuno ha un compito, ognuno ha delle deleghe e tutto funziona come una grande azienda. In Italia penso che sia l'unico modello e le altre società non hanno capito che non servono capitali, secondo me, che arrivano, cioè bisogna gestirla come un'azienda, come un SPA. Questo è il segreto della Juve che la farà vincere per altri 10 anni. Sì, e poi servono anche i capitali che arrivano dal fatto di essere gestite e amministrate in un certo modo, cioè è un po' un tutt'uno, no? Certamente la Juventus è il modello di società contemporanea italiana, però ovviamente servono anche capitali che poi arrivano dalla Champions League, che arrivano dalla gestione dello stadio, che arrivano dal merchandising, marketing e tutte queste belle cose che alla Juventus vengono gestite, ripeto, non in maniera non come accadrà nel futuro, ma in maniera semplicemente contemporanea, ed è l'unico club ad essere gestito in questo modo. Posso chiedere conferma a Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport? Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao, come stai? Benissimo, grazie a voi, pronti per l'Europeo? Prontissimi, ti piacerebbe da appassionato di motori essere qui a Parco Valentino, eh? Al salone dell'auto all'aperto, ti assicuro. Beh, che è una meraviglia, nonostante il cielo metta qualche preoccupazione. Nonostante sono passato ieri, e devo dirti che è sicuramente una grande bella idea, perché si portano le auto ancora a contatto con la gente, e ieri era anche una bella giornata, oggi purtroppo mi dici che non lo è come qui a Milano, ma sicuramente c'è tanto da vedere, anche da toccare, da provare. È una bella idea di portare le macchine di tutti i giorni, ma anche quelle da solo, le supercar, a contatto con la gente. Bravi, devo dire, bravi gli organizzatori. E poi un po' tutta la città si respira questa voglia di automobili, che mancava, e che a Torino credo che sia di casa. Siamo a Motown, no? Come quella che in America verrebbe definita Motown. Tu sei pronto per l'Europeo, Umberto? Per l'Europeo siamo pronti, la spedizione Gazzetta è partita, così come i vostri collaboratori, e da domani racconteremo le partite. Ed è un Europeo cui l'Italia si presenta forse un po' sottotono, però tante volte poi noi abbiamo stupito, quindi anche questa volta credo che all'Italia chiederemo di stupirci, chiederemo di andare più in là di quello che tutti adesso ci immaginiamo e speriamo, perché non la possiamo assolutamente mettere tra le grandi favorite, ma possiamo sperare in un'Italia che, insomma, che regali a Conte un addio alla grande. Tra l'altro la Gazzetta dello Sport, la rosea cambierà per l'occasione colorazione. La rosea, che era diventata verde pochi mesi fa, quando a marzo ad aprile abbiamo celebrato i nostri 120 anni, domani diventa tricolore, ma non soltanto tricolore nella prima pagina, come abbiamo già fatto altre volte. Mi ricordo ad esempio una volta in cui Valentino e Vettel vinsero insieme, facciamo una prima pagina particolarmente riuscita col tricolore, ma proprio nello sfoglio ci saranno i fogli che rappresentano una gazzetta ricca di oltre 60 pagine domani, perché c'è anche all'interno un inserto dedicato appunto a tutte le curiosità, a tutti i nomi dell'Europeo che sta per partire in Francia. Una gazzetta che avrà un foglio verde, un foglio bianco e un foglio rosso, che nel nostro caso è rosa, quindi una gazzetta intera, vera, tutta tricolore, appunto per festeggiare e celebrare l'inizio dell'Europeo degli Azzurri. Senti Umberto, in questa stagione eravamo partiti con grandi torna alle macchine e alle moto, visto che sono in tema e sono qui. Eravamo partiti con grandi attese nei confronti della Ferrari, grandi attese in parte anche alimentate, anzi molto alimentate dal management, e con qualche perplessità nei confronti di quel signore che si avvicina ai 40 anni, cioè Valentino Rossi. Adesso direi che la proporzione si sta ribaltando. Esattamente, si è ribaltato tutto. Io dopo le prime gare dell'anno scrivevo di una Ferrari che si era avvicinata alla Mercedes, soprattutto dopo la prima gara dell'anno, perché poi si è allontanata progressivamente, di un Valentino che invece non aveva trovato feeling con la moto. Beh, mi sbagliavo, perché poi Valentino ha piano piano recuperato il feeling con la moto, anzi ha ritrovato con la sua Yamaha forse un feeling, e con le gomme Michelin, non dimentichiamolo, un feeling che l'anno scorso forse non aveva così in misura così massiccia, perché anche in qualifica quest'anno Valentino sta facendo delle cose egregie, a parte l'ultima volta, poi però ha vinto, quindi ha cancellato tutto. Dall'altra parte la Ferrari si è invece dimostrata non soltanto non veloce come la Mercedes, ma anche molto fragile, perché ha incominciato a rompere i motori, e adesso siamo all'ennesima gara senza un domani, perché a Montreal, dove porteranno delle novità importanti dal punto di vista motoristico, ci si aspetta una Ferrari un po' più vicina alla Mercedes, perché se non sarà così vorrà dire che, tanto per cambiare, dovremo cominciare a pensare all'anno prossimo. Sì, posso anche essere malizioso e dire che Vettel in questa stagione, meraviglioso pilota, ma non rappresenta più quel valore aggiunto che ha rappresentato l'anno passato. un'analisi correttissima, perché Vettel l'anno scorso era sempre qualcosa in più, quest'anno ha cominciato a sbagliare qualcosa in qualifica, poi lo trovo troppo lamentoso, cioè un Vettel che si arrabbia prima con Kvyat, poi con chi tenta di sorpassarlo, si è arrabbiato troppo quest'anno, l'ho visto troppo nervoso. Però io dico che tu sei nella città da dove sono partiti all'inizio della stagione i grandi auspici, e molte colpe ce le hanno lì. Adesso non so se Marchionne sia su un aereo, sia a Detroit, sia a Maranello o dove sia, probabilmente magari si presenterà in Canada in questo fine settimana, però è colpa sua se le aspettative per la Ferrari quest'anno sono state altissime, perché lui che ha parlato di una Ferrari che doveva andare in pista per vincere la prima gara dell'anno e poi vincere il mondiale, mentre insomma, parlando con gli addetti ai lavori, tutti si dicevano un po' sorpresi da queste previsioni, perché in Formula 1 non era così facile, non è così facile recuperare un distacco come quello che aveva separato Mercedes e Ferrari un anno fa. Ma no, ci vuole tempo, ci vogliono anni, ci vuole sviluppo, ci vuole applicazione, ci vogliono scelte giuste, e quelle scelte richiedono appunto tempo, applicazione e un po' di pazienza, magari un po' meno di pressione. Grazie Umberto, grazie direttore. Ciao, buon proseguimento, ciao, ciao a tutti. Ci vediamo sulla Gazzetta Tricolore per celebrare il campionato europeo che va a cominciare. 800240024, Simone, buongiorno. Buongiorno. Dica. Siamo da Pescara, grazie della convocazione. Grazie a lei. Visto che ancora è stato menzionato l'argomento, volevo una parola su questa finale di questa sera dei playoff Trapani-Pescara. E cosa ne pensavate voi del gioco che Oddo quest'anno proposto? Io penso che sia stato molto interessante, propositivo e anche divertente. Eccellente, io direi che il Pescara questa adesso faccia pure tutti gli scongiuri che vuole, ma credo che il Pescara questa finale di Serie B ce l'abbia mezza in tasca, ma meritatamente, perché è servito Oddo con il suo gioco, è servito un complesso di qualità, è servito la Padula che adesso è sulla bocca di tutti, e quindi non mi sorprende più di tanto questo, non mi sorprenderebbe se questo fosse l'esito finale. Poi, ripeto, faccia tutti gli scongiuri che vuole. Bruno, dica. Sono qua. Buongiorno innanzitutto e grazie della convocazione. Volevo solo chiedere molto, molto tranquillamente a quel tifoso juventino che ha parlato di una società perfettamente organizzata come un SPA, se aveva anche capito come si poteva fare a vincere in Europa. Perché mi sembra che lì non stia andando molto bene questa SPA. E questo Però un anno fa si ricorda che non sono andati poi lontanissimi dall'obiettivo, e lei sa benissimo che si può fare tutta l'ironia del caso, che ci sta, però l'Europa la Champions League è una competizione molto legata alle stelle, quindi anche quest'anno la Juventus non è arrivata poi ipoteticamente lontanissima dal raggiungere quel traguardo. Un anno fa è arrivata in finale, un anno fa se l'è giocata con il Barcellona. Io continuo a pensare che insieme a Bayern, Barcellona, a quelle 7-8 grandi squadre, grandi potenze europee, rimanga comunque una di quelle competitive. Poi al di là di come vanno i sorteggi, di come va a Siviglia, di quello che si butta che poi si riprende, perché quest'anno secondo me il vero peccato originale è stato quello commesso in Spagna alla fine del girone di qualificazione. Oh, Simone Sandri dagli Stati Uniti, buongiorno. Buongiorno Carlo. Bene, roviniamo la serata di quelli che stanno aspettando di riguardarsi la registrazione della finale NBA tra Cleveland e Golden State. Purtroppo sì, devo dire che i tifosi veri dovrebbero stare svegli fino alle 3 del mattino, anche se poi andare a lavorare il mattino dopo è un po' dura, però è veramente non di questa una finale così, penso che bisogna guardare dal vivo, perché secondo me c'è qualcosa. Innanzitutto stiamo facendo la storia, perché ci stiamo dimenticando di cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo la più grande squadra della storia della regular season, Golden State, contro un LeBron James che quando accelera dimostra di essere il più forte giocatore del mondo. è veramente sì. Una finale particolare, strana, dove una squadra domina, una squadra sembra aver chiuso la serie e poi si va dall'altra parte e dominano gli altri, per cui lascio a te dire il risultato per la cronaca. Per la cronaca ha vinto Cleveland, si è portata sul 2-1, non era così impossibile e imprevedibile. Secondo me nei playoff non devi tanto leggere il tabellino e gli scarti quanto così l'andamento della serie. È chiaro che Cleveland ha fatto gli aggiustamenti che doveva fare, ed è altrettanto chiaro che Golden State resta favorita, incredibilmente favorita, perché in molti, me compreso, avevano pronosticato una vittoria di Cleveland. Però in questo momento la serie si è riaperta, e ma ne abbiamo parlato anche altre volte, sarà una serie, penso, piuttosto lunga, che ci regalerà lunghe nottate insonni. Sì, dipende dall'atteggiamento di Golden State in gara 4, perché sono in gara 3 e i Warriors sono entrati in campo con l'atteggiamento mentale sbagliato, hanno fatto tanti errori, un pizzico di arroganza anche secondo me. E col Cleveland li ha puniti giocando una basket straordinaria soprattutto nei primi minuti, aiutati dal pubblico e da un LeBron in versione MVP, perché ha veramente giocato alla grande e ha fatto entrare subito in partita anche Irving, cosa fondamentale. Può essere una serie lunga, devo anche dire che però diventa adesso ogni volta nei playoff si dice che la prossima partita è la partita decisiva, però in effetti per Cleveland diventa fondamentale ovviamente vincere gara 4, perché se Golden State riuscisse a cambiare un po' le sorti di come si sono messe le cose adesso e vincere gara 4, poi avrebbe la possibilità di chiudere i conti sul suo parquet. Ma guarda, anche guardandola questa notte e anche vedendo Cleveland vincere, io ho la sensazione che Golden State abbia così preso le misure e abbia cucito il suo vestito addosso a Cleveland. Beh, sì, è un po' strano però, perché questa era una serie che sembrava incanalata in un certo modo, e il modo con cui Golden State, da un punto di vista mentale, il modo con cui ha approcciato la partita è abbastanza deludente per i tifosi di Golden State. Sembra in teoria, da un punto di vista sulla carta dei matchup, soprattutto le prime due partite, ma la serie in generale fa capire che in teoria Golden State ha qualcosa di più in questa serie. Detto questo, poi però bisogna dimostrarlo tutte le volte, perché appena abbassi il livello di concentrazione e di intensità nelle finali NBA e contro questo LeBron James, poi paghi, e per cui credo che Golden State, se gioca veramente con la concentrazione giusta, con la sua pallacanestro, in teoria ha qualcosa in più di questi Cavs. Detto questo però, veramente complimenti a Cleveland, perché ha fatto una partita veramente straordinaria, e LeBron è stato grandissimo, perché non solo ha dominato, ma è riuscito a fare entrare in partita tutti i suoi compagni. Cleveland ha giocato in maniera completamente diversa a livello difensivo, e come hai detto tu giustamente all'inizio, adesso abbiamo una serie, non sembrava possibile forse dopo gara 2. Grazie Simone. Buon lavoro dagli Stati Uniti. Grazie Simone Sandri. Chiudo con Antonello da Terni, ascoltatore, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. No, io dica. Solo per dire due parole sulla Ferrari, sentivo prima se ne parlava. Io ricordo sempre che un signore di nome Michael Schumacher per vincere il mondiale ci ha messo 5 anni, quindi dopo ne vado a cercare uno qui a Parco Valentino, perché non l'ho ancora visto, sono arrivato prima, sono dovuto lavorare, sono qui in onda, non ho ancora visto il cavallino rampante, ma poi me ne vado a cercare una, non da comprare, sia chiaro. Mi fa segno Andrea Ferro, vai là in fondo che la trovi, poi vado a vedere. Non è male, allora, anche per noi che non la vediamo da vicino, quindi ecco. Fate un salto qua, è meraviglioso. Certo, no, ecco, era solo questo, insomma, quindi tutta questa fretta sulla Ferrari, lo dico da tifoso, ripeto, il signor Michael Schumacher ci ha messo 5 anni. Quindi ha ragione. Formula 1 non si inventa. E erano altri tempi in cui la Ferrari sfruttava il suo più grande asset, che era quello di provare in pista. Oggi questa cosa non c'è, e quindi credo che la fretta che sia stata messa forse è stata un po' imprudente, perché in Formula 1, come dice anche il vostro frequente ospite Leo Turrini, non si inventa nulla. Quindi ecco. Non si inventa nulla, cioè se ci sono dei distacchi, voglio dire, non è che li annulli con una stagione di lavoro, li annulli lavorando bene per diverse stagioni. E secondo me quelle dichiarazioni fatte a inizio stagione dal management della Ferrari sono state come minimo imprudenti. Ci fermiamo qui da Parco Valentino, dal salone dell'auto all'aperto, meraviglioso, Riva del Po, Torino. Io ringrazio Pietro Lacorte qui in regia, ringrazio Alessandro Longoni che mi ha dato una mano, ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, ringrazio Elena Ligios che è sempre qui con noi in ogni esterna, ringrazio Davide Ciocia, ringrazio Gianmarco Ferronato in regia, ringrazio Federico Binda, ringrazio tutta la squadra. Ci sentiamo domani alle 2, ciao. Arrivederci ragazzi, ciao.